L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata in cui parleremo molto di agricoltura, di mais in questa prima parte, di vino, o meglio di scuole enologiche nella seconda. E ritroviamo subito, per parlare appunto di mais, Mario Vigo, ex vicepresidente di Confagricoltura Nazionale, oggi presidente del Centro Studi Innovagri, associazione impegnata nella ricerca, studio, nell'approfondimento degli aspetti innovativi del settore agroalimentare. Mario Vigo è anche imprenditore, un imprenditore agricolo ovviamente, presso l'azienda Folli di Mario e Alberto Vigo, si trova a Mediglia ed è in provincia di Milano. E lì si sta sperimentando dal 2014 un protocollo di produzione che è stato denominato Combi Mais Hydro Technologies, che si propone di arrivare alla produzione di 20 tonnellate di granella di mais a ettaro con una metodologia innovativa e sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico. Noi Mario Vigo lo ritroviamo periodicamente per sapere come vanno le cose. Facciamo un breve ripasso della situazione. Intanto benvenuto. Sì, certo, buongiorno a tutti e buongiorno a lei in particolare. Direi che questo progetto è stato ideato nel 2013, applicato nel 2014 e reso operativo nel 2015, perché era un progetto che era stato pensato, ideato e realizzato per Expo. Rispetto al passato, quando poi dopo, appunto, durante il periodo di Expo sono venuti anche dei visitatori per conoscervi, per vedere il progetto, per sapere quali erano i risultati, insomma, sono state introdotte quest'anno delle novità e io le chiedo quali sono queste novità e perché avete deciso di continuare e diversificare un poco. Allora, certamente partirò dal fondo. Perché abbiamo deciso ovviamente di continuare? In un primo momento abbiamo pensato che finito l'Expo potesse essere finito il nostro ruolo, il nostro progetto. Così non è stato. Non è stato perché i motivi sono sicuramente tanti. Il primo dei quali è che vale la pena assolutamente di ricercare, soprattutto vale la pena di continuare a innovare. Chi non innova non progredisce e quindi noi abbiamo necessità come imprese del mondo dell'agricoltura di continuare a produrre per il meglio e fare un lavoro ovviamente che sia anche possibilmente redditizio. Detto questo, abbiamo raccolto anche alcune grida che si sono levate post Expo, perché sicuramente Expo ha dato una grande immagine alla nostra città, al nostro paese, ma sicuramente non ha risposto ad alcune domande che si erano poste: come produrre, quanto produrre, come ovviamente impattare meglio il discorso della nostra agricoltura e quant'altro. E abbiamo recepito il grido d'allarme di Assosementi, che ha sostanzialmente detto nel corso dello scorso inverno: attenzione, c'è un problema sul mais in Italia. Quindi io non devo che ringraziare tutti i miei partner che vorrei citare, perché è stato un lavoro di squadra che abbiamo continuato dopo questo biennio, che è stato particolarmente positivo, e sono la Syngenta, sono la Netafim, la Unimer, la CUN, la CIFO e, così entro assolutamente in argomento, assolutamente dei nuovi partner che si sono aggiunti ovviamente quest'anno. Quindi diciamo che questo progetto continua. Quali sono ovviamente i punti, diciamo, più importanti? Le voglio chiedere però, prima di proseguire, che grido di allarme vi ha rivolto Assosementi? Diciamo che qual era il problema del mais in Italia? Ecco. Qual è il problema del mais in Italia? È che innanzitutto nel corso degli anni abbiamo prodotto decisamente meno, e oltre a produrre meno e quindi a importare più mais dall'estero, si è perso molta della qualità di questo prodotto. Teniamo presente che il mais è sicuramente una coltivazione non solo importante, ma strategica per la produzione. Infatti l'agricoltura italiana, che si mantiene su alcuni prodotti d'eccellenza come i prosciutti o come i grana, derivano evidentemente da un'alimentazione del mais. Quindi certo, produrre mais e produrre mais sano e di qualità non solo serve direttamente all'alimentazione umana, ma serve anche indirettamente, perché il mais lo ritroviamo comunque in tanti elementi di cui ci nutriamo. E quindi certo, questo è fondamentale, noi non ci pensiamo mai, ma il mais è un po' ovunque, dove ci, in tutti i prodotti alimentari, quasi tutti i prodotti alimentari che noi utilizziamo quotidianamente. Quindi ritorniamo allo step che avete fatto quest'anno. Ho visto molto lavoro in particolare ancora sull'acqua e quindi sull'irrigazione, ma anche con dei confronti tra irrigazioni tradizionali e irrigazioni di nuova generazione, diciamo così. Sì, infatti il valore di questo progetto è plurimo, e cioè si inserisce in un discorso di ricerca, questo per dare direttamente dei risultati alle aziende agricole. Il nostro obiettivo è sempre quello di produrre sempre mirato, avendo un'attenzione particolare all'ambiente, ecco perché il risparmio dell'uso dell'acqua e il risparmio anche di alcuni elementi chimici è fondamentale. Ciò non di meno però le aziende agricole devono produrre, perché solo facendo una produzione e aggiungendoci la qualità si può pensare di rimanere su un mercato che è diventato complicato e difficile. I valori aggiunti di quest'anno sono sicuramente innanzitutto l'ingresso dell'Università Agraria di Torino col professor Rainieri, che coordina sicuramente la nostra ricerca, e questo è un valore aggiunto. E altro obiettivo che abbiamo raggiunto, lo dico con una certa soddisfazione, questo protocollo non solo prevede tutta la produzione, cioè dal campo, ma oggi possiamo dire dal campo alla tavola, perché il prodotto che avremo ottenuto e che otterremo quest'anno sarà ovviamente destinato a una farina particolare per uso polenta attraverso il Molino Martini, e quindi con questo abbiamo chiuso quel cosiddetto cerchio che si chiama la filiera. Partiamo dal campo e arriviamo alla tavola con l'augurio di assaggiare una buona polenta. Vabbè, certo, questo fa piacere a tutti, insomma. Aggiungo anche che proprio per continuare a fare quel discorso di ricerca che ha accennato lei riguardante l'acqua e quant'altro, altra novità particolare di quest'anno è il cosiddetto uso dei sensori, e cioè vale a dire le centraline, che tecnicamente sono chiamate sensori, che vengono installate addirittura nel campo e che permettono di monitorare alcuni parametri ambientali specifici dell'agricoltura, per esempio la temperatura dell'aria del terreno, l'umidità dell'aria del terreno fino a qualche metro di profondità, l'umidità delle foglie, questo con l'obiettivo di creare sempre più un'agricoltura di precisione mirata anche alla produzione. Credo che questo sia un lavoro di non poco conto. E se sì, mi permette, aggiungo anche, questo era uno degli obiettivi che ci saremmo aspettati da Expo, proprio per dare il futuro all'agricoltura. Noi però lo stiamo facendo lo stesso. Quindi un po' di critica rispetto all'Expo? Assolutamente sì, con ciò non voglio non sottolineare la grande manifestazione e il grande successo in termini di partecipazione di Expo, e anche la grande occasione per il nostro paese di dare finalmente una risposta importante nel campo del cibo. Ma per arrivare al cibo c'è un passaggio precedente che è costituito dall'agricoltura, e l'agricoltura va ricercata, va sostenuta, va aiutata da un punto di vista dei protocolli. Expo sicuramente è rimasta un po' troppo sulle generali rispetto a questi temi. A proposito di agricoltura di precisione, lei prima parlava dell'acqua, vedo che avete lavorato anche sulla concimazione localizzata, quindi sono tanti gli interventi che si possono fare. Sì, infatti sarà importante quando per la fine di settembre opereremo all'interno della nostra azienda una giornata chiamata Open Day, in cui daremo ovviamente i risultati di tutte queste parti sperimentali. Ovviamente non c'è solo la parte produttiva che fa la parte del leone, e noi speriamo che dopo 2 anni precedenti, uno estremamente piovoso, l'altro estremamente siccitoso, quest'anno la natura ci regali un anno, diciamo, abbastanza normale, tra virgolette. Detto questo, nella giornata dell'Open Day presenteremo anche risultati non solo, come dicevo, legati alla produzione, ma anche legati alle diverse prove, in modo tale da poter dimostrare dove si può irrigare in un certo modo, dove si può evidentemente nutrire le piante in un certo modo, in maniera tale da creare anche comunque una serie di risultati che possano servire non solo per noi, ma ovviamente per tutti i nostri colleghi. In ultimo ho notato, e mi ha fatto piacere, insomma, perché tra tanta innovazione c'è anche qualcosa di tradizionale, che è l'Operation Pollinator. Che cos'è, certo, l'Operation Pollinator? È un metodo di applicazione nella coltivazione dei campi. Cosa significa? E perché abbiamo pensato tutto questo? Perché sembra quasi che nel nostro paese, e vorrei sfatare un tabù, che produrre tanto significa evidentemente sfruttare. Non è vero, si può produrre tanto, è giusto, e se vogliamo è anche bello. Non è che solo produrre poco è bello. È anche necessario poi produrre tanto, visto che aumentiamo a livello mondiale, non italiano, ma insomma... Esattamente, quindi ritornando all'Operation Pollinator, noi abbiamo intorno a dei nostri campi dei bordi in cui seminiamo delle essenze in modo tale che alcune specie di animali possano convivere di fianco a un settore produttivo, per esempio le api, per esempio altri animali che possono ovviamente stare. Tutto questo sta a dimostrare che si può fare un'agricoltura produttiva, ma anche nello stesso tempo un'agricoltura ambientale. Quindi per noi avere i corridoi dell'Operation Pollinator significa avere un erbaio, certamente produrre qualcosa di meno, ma dare un messaggio ovviamente sulla sostenibilità assolutamente importante, e si può produrre anche tanto in termini di mais in questo caso. Dunque, io la ringrazio molto per essere stato con noi anche in questa occasione. Noi ci risentiamo tra 6 mesi circa, perché di solito questo è il nostro ritmo, no? Quindi ci sentiamo dopo l'estate per sapere com'è andata, se l'anno finalmente è stato normale, diciamo così, tra virgolette. Esatto, io vi do appuntamento alla nostra giornata dei risultati dell'Open Day, augurandoci di avere un'estate giustamente calda, ma non siccitosa. Grazie e buona giornata. Grazie a lei e buon lavoro. Facciamo una pausa e ci ritroviamo tra poco. L'altro pianeta. Di nuovo buon pomeriggio da Laura Bettini, ancora ben ritrovati per questa puntata in cui stiamo parlando di agricoltura. Abbiamo parlato prima di mais e di innovazione in quell'ambito. Ora cambiamo zona, cambiamo produzione, andiamo alla scuola enologica di Conegliano Veneto, che ha da poco compiuto 140 anni, un compleanno che tra l'altro è caduto proprio nell'anno in cui Conegliano è stata nominata città europea del vino, e quindi è un compleanno che la storica cantina Carpenè Malvolti ha deciso di celebrare degnamente, anche perché la scuola è stata fondata nel 1876 dal capostipite della famiglia Carpenè, Antonio. Etile Carpenè è un suo discendente ed è l'attuale presidente. Il mio bisnonno era un appassionato di viticoltura ed enologia. Si era reso conto che la situazione nella nostra regione era molto arretrata, perché la viticoltura era fatta sulla base di notizie tramandate di padre in figlio, ma con nessun concetto scientifico. Per cui cominciò lui stesso a girare per i vigneti, per i vari paesi, insegnando, seduto su un carro per essere un po' più alto e visibile, insegnando le basi dell'enologia. Poi, essendo lui in contatto con vari personaggi, per cui Pasteur, eccetera, conoscendo la realtà europea, cominciò con la fondazione di una prima scuola negli anni 70 a Conegliano per l'enologia, che poi diventò l'istituto attuale, fondato nel 76 da lui e Cerletti, che aveva proprio lo scopo di impostare le basi di una sana viticoltura e parallelamente le basi di una sana enologia. La quindi scientifica, proprio l'idea era di no, prendere una via scientifica, non più solo esatto, di tradizione. Esatto, perché d'altra parte ormai il mondo si avviava verso una filosofia più scientifica. E così è partita la scuola. Ha avuto insegnanti favolosi nei vari anni e è sempre stata fra le prime, direi, del mondo, insieme a Montpellier, insieme a Gassenheim, insieme a San Michele Adige, prima Austria, poi per fortuna Italia, che hanno fatto la, la viticoltura e l'enologia a livello mondiale. E così Antonio Carpenè allacciò i rapporti con le scuole enologiche che 140 anni dopo hanno deciso, hanno partecipato con entusiasmo ai festeggiamenti dell'anniversario con un progetto di ricerca comune. Di che si tratta ce lo racconta la preside della scuola enologica Cerletti, nonché direttore della fondazione ITS, Damiana Tervilli. Il progetto è uno studio sulla spumantizzazione alla fine dell'Ottocento. Questo è stato fatto per celebrare il 140esimo della scuola enologica di Conegliano ed è stato fatto comunque in collaborazione principalmente con la Fondazione Edmund Macher di San Michele all'Adige, oltre che con la partecipazione, seppur a distanza, di Gazenheim e Montpellier, che sono state le prime scuole sulle quali Carpenè andò a studiare appunto i metodi di spumantizzazione. Studi che gli servirono poi per sviluppare un metodo di spumantizzazione diverso, che è quello del metodo Chermat, che noi utilizziamo per il nostro prosecco, diverso dal metodo classico che viene utilizzato invece ad esempio a San Michele. Che pure non è distante, quindi i metodi cambiano. I metodi cambiano sia per le tradizioni che ci sono, sia anche per la tipologia del vitigno che viene impiegato ovviamente. E questo è un dato molto, direi anche, che rende l'idea della diversità, no? del panorama, della complessità poi anche, ecco, di quello che ci circonda. Più che della diversità, direi che rende l'idea della complessità di quello che noi troviamo nel nostro territorio, non solo a livello qui nel Nord Italia, ma anche a livello nazionale. Noi ci confrontiamo spesso su queste tematiche, anche dal punto di vista didattica, e ovviamente questo si ripercuote anche a livello europeo, sulle diversità che possono esserci a livello europeo. Quindi insomma, con noi abbiamo sicuramente delle identità che sono ben precise e molto importanti, che in questo periodo stanno anche affermandosi con grande forza. E le affinità invece quali sono? Perché c'è tutto questo panorama, ma c'è anche qualcosa che vi unisce. È la passione, la ricerca, oppure... Sicuramente la passione della ricerca. Poi credo che un tema che ci stia appassionando tutti e che ci preoccupi tutti sia quello della sostenibilità. In questo momento noi particolarmente a Conegliano stiamo facendo delle sperimentazioni con i nostri ragazzi che riguardano la sostenibilità, quindi l'uso di prodotti non classificati in collaborazione con gli enti territoriali, ma questo non è solo un problema nostro, è un problema a livello europeo, e quindi cerchiamo di far conoscere anche per quanto possibile anche queste nostre piccole attività. Quindi la sostenibilità la declinate sull'aspetto dei prodotti che vengono utilizzati? Sostenibilità noi la decliniamo intanto nell'ambito più della viticoltura che non dell'enologia, riguardo il trattamento dei vigneti. Tutte le polemiche che spesso ci sono a volte sono fuori luogo, perché in realtà noi utilizziamo dei prodotti che non sono cosiddetti non classificati, che praticamente non hanno alcuna tossicità nei confronti dell'uomo, e otteniamo degli ottimi risultati. 2 anni fa nei nostri vigneti, noi abbiamo 13 ettari di vigneto, che fu un'annata particolarmente difficile, devo dire con orgoglio che avemmo delle ottime soddisfazioni utilizzando, oltre che questa tipologia di prodotti, sostenuti anche dalle aziende delle produttrici di fitosanitari che lavorano con noi, ma anche con metodi agronomici tipo la defoliazione e quant'altro, ottenemmo degli ottimi risultati, dell'ottimo prodotto. E in conclusione sentiamo anche Marco Dalri, dirigente del Centro Istruzione e Formazione presso Fondazione MAC, Istituto Agrario San Michele all'Adige, che è uno degli istituti che partecipano a questo progetto di ricerca sul metodo Champenoise. La fondazione, che praticamente nasce nel 1874, poi si evolve in vari modi, comunque da sempre si occupa di formazione e istruzione in ambito agricolo e soprattutto enologico, ma anche di ricerca in questo settore e anche di assistenza tecnica sul territorio, in quanto in Trentino, diciamo, la fondazione gestisce tutto il comparto agricolo dal punto di vista formazione, istruzione, ricerca e assistenza tecnica. Nell'ambito di questo specifico progetto, qual è stata la collaborazione, come si è sviluppata? Ma direi che la collaborazione tra le due scuole esiste da sempre, soprattutto poi negli ultimi anni, dalla metà del secolo scorso in avanti. Tenga presente che uno dei direttori della scuola di San Michele è stato Giovanni Manzoni, figlio di Luigi Manzoni e quindi preside di Conegliano, no? E per molti anni è stato il direttore a San Michele ed è stato lui che ha portato anche molte innovazioni in ambito enologico. e poi le collaborazioni sono in essere da molto tempo a livello di didattico ma anche di ricerca. Che tipo di ricerca appunto si conduce in questo campo nel 2016? Ma direi che noi, almeno come Istituto di San Michele, lavoriamo su vari filoni. Un filone è quello della genomica, della genetica e quindi del miglioramento della vite, soprattutto per introdurre la resistenza, quindi le viti che siano meno che non richiedono trattamenti fitosanitari. E poi diciamo che un grosso lavoro viene fatto anche rispetto a tutta la caratterizzazione dei vini per quanto riguarda gli aromi e gli aromi che si sviluppano durante la vinificazione e l'evoluzione del vino. E rispetto a quello che accadeva ormai 140 anni fa, quali sono le maggiori differenze che il pubblico magari può apprezzare? Ecco. Però rispetto al vino che si faceva 140 anni fa e quello che si fa adesso, che cosa cambia di grosso? Direi dipende se parliamo di vino in generale o se parliamo di spumante. Parliamo di spumante, va bene. Beh, direi che come spumante, guardi, tutto sommato noi in Trentino da sempre adottiamo il metodo classico, tradizionale, quello Champenois, tanto per capirci, perché un nostro ex allievo, Giulio Ferrari, famoso anche perché poi ha dato il nome ad uno spumante trentino importante, era stato in Francia dopo gli studi a San Michele e ha portato in Trentino questo nuovo metodo, che poi il Trentino si è sviluppato, ha studiato, ha approfondito, anche perché le caratteristiche climatiche del Trentino erano molto simili a quelle della Francia dove si era recato Ferrari, e quindi anche i vitigni, lo Chardonnay, il Pinot Nero e il Pinot Bianco erano diventati la base per lo spumante con il metodo classico, quindi sostanzialmente non si è molto evoluto, perché le tecniche sono quelle, la rifermentazione in bottiglia e i mesi, diciamo, che matura lo spumante sui lieviti, quindi ci vogliono 36 mesi affinché diventi uno spumante, diciamo, completo, ecco. E chiaramente quello che è stato fatto sono stati tutti gli studi di ricerca per capire il ruolo dei lieviti e quello che si evolve nello spumante durante questo periodo di maturazione. È molto bello anche, mi colpiva la collaborazione che esiste tra tutte le scuole, che già c'era, no? Nacque certo. Più di un secolo fa, certo. 150 anni fa, e il fatto che si continui a lavorare, certo. Insomma, in questa Europa del vino, certo. della ricerca scientifica, cioè, ci sono tanti temi vicini. Questo credo sia bello anche per voi, certo. che non è un mondo a parte, come a volte uno immagina, quello di chi vive sulle colline, sulle montagne, là dove si fa il vino, ma in realtà è un mondo molto aperto con molti scambi. Sì, io direi che da sempre esiste una rete tra le scuole che si occupano di agraria, soprattutto di enologia, tanto che anche attualmente esiste una rete nazionale ma anche una rete europea, e noi ci troviamo periodicamente proprio anche a trattare le tematiche che riguardano sia la formazione ma anche la ricerca in questo settore. Quindi sicuramente questo aspetto della rete esiste da sempre e anche in questo periodo è molto forte. Ci fermiamo qui, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora da Laura Bettini. Un buon pomeriggio con Radio 24.